Riprendiamo dai microfoni quindi di Radio Onda Rossa con questo approfondimento di Africa in Movimento sulla situazione egiziana. Abbiamo preso spunto per questa riflessione dagli eventi che si sono sviluppati ieri, apice di un nuovo fermento che in realtà non si è mai arrestato, un fermento che in realtà è passato sotto silenzio, soprattutto sulla stampa occidentale, in particolare italiana, e quindi proprio per questo abbiamo deciso di continuare questa nostra riflessione sull'Egitto. Una riflessione che parte dalla manifestazione, dalle mobilitazioni che si sono sviluppate in Egitto, come dicevo, da ieri mattina fino anche a notte inoltrata, in numerose città, dalle città del canale di Suez fino a Sharm el-Sheikh, ad Alexandria, al Cairo. A Suez, per esempio, giovedì già erano cominciati a Piazza Arba'in, che è una delle piazze più centrali della città, un sit-in delle famiglie, scusate, delle cosiddette vittime della rivoluzione, così vengono definite, o comunque vengono definiti anche martiri della rivoluzione, ovvero quei ragazzi, quelle ragazze, quelle donne e quegli uomini che sono stati assassinati dalle forze di polizia, della Baltagheia anche, ovvero le squadracce del Ministero degli Interni durante le mobilitazioni da gennaio a questa parte. Un sit-in che, appunto, come dicevamo, è cominciato giovedì e è continuato anche venerdì mattina. Un sit-in cominciato da poche centinaia di persone che ha visto poi una mobilitazione massiccia da parte di tutta la città venerdì 8 luglio, ovvero ieri, proprio in solidarietà alle famiglie delle vittime. Si parla di più o meno 6.000-7.000 persone, che per una città come Suez, non troppo grande, insomma, è un numero abbastanza importante. Che cosa chiedevano a gran voce? Le dimissioni naturalmente del ministro dell'interno Mansour El-Essawi, il ministro del nuovo governo impiantatosi da qualche mese ormai sotto l'impulso del Consiglio Supremo delle Forze Armate, che ricordiamolo sta controllando il processo di transizione egiziano dal momento, insomma, della caduta di Mubarak, che dovrebbe traghettare teoricamente il paese fino alle elezioni che si svolgeranno a settembre per quanto riguarda l'Assemblea del Popolo, ovvero il Parlamento egiziano, e poi successivamente fino a dicembre per le elezioni presidenziali. E chiedevano anche a voce alta le dimissioni di tutto il personale del ministero presente sin dall'epoca di Mubarak e che ancora è rimasto attaccato alla poltrona. Quindi entrambi accusati, sia il ministro che questa parte del personale, di essere corresponsabili delle torture e dell'assassinio di questi manifestanti. Oltretutto, manifestazioni che, e lo vedremo anche in seguito, si sono esacerbate, hanno aumentato il livello di tensione anche a causa del comportamento quanto mai imprudente da parte di alcune autorità giudiziarie che hanno rilasciato su cauzione alcuni poliziotti accusati di maltrattamenti, torture, fino appunto anche all'assassinio. Insomma, alcuni sono imputati anche di appunto assassini mirati verso alcuni manifestanti, sono stati rilasciati su cauzione fino al momento del giudizio, e questo quindi ha naturalmente provocato violenti scontri tra manifestanti e forze di polizia in tutto il paese, come vedremo. Oltre a Suez, vi è stata poi una manifestazione, diciamo, quasi simpatica a Sharm el-Sheikh, località famosa per il turismo balneare, che invade le coste appunto del Mar Rosso, soprattutto da parte di italiani, ormai da una decina di anni a questa parte. Perché? Perché a Sharm el-Sheikh è ancora ricoverato l'ex Rais, il dittatore Mubarak, all'ospedale internazionale, e c'è stata una manifestazione di qualche centinaio di persone di fronte all'ospedale che reclamava l'arresto di Mubarak o comunque la cacciata di Mubarak da quell'ospedale per essere in realtà incarcerato. Manifestazioni che in realtà di questo tipo si era già riprodotta nei mesi passati, in parte anche da una fetta della popolazione di Sharm el-Sheikh che teme delle ripercussioni sul turismo. Quindi a volte vi sono anche delle questioni, delle mere questioni materiali che sostengono questo tipo di manifestazioni. Manifestazioni più grandi, più incisive, anche per il numero demografico delle città di Alessandria e di Al Cairo, si sono appunto svolte in queste due città. Ad Alessandria ieri decine di migliaia di persone si sono riunite in varie proteste, varie mobilitazioni pacifiche. Si reclamava principalmente anche qui oltre appunto a una maggiore chiarezza, diciamo, e un atteggiamento molto più netto da parte del governo e del Consiglio Supremo delle Forze Armate nei processi che si stanno attivando, che si sono attivati nelle ultime settimane verso alcuni complici, alcuni membri dell'ex regime. Accanto a questo ci sono state però anche delle rivendicazioni interessanti dal punto di vista socio-economico, tra tutte quella di un sussidio, la richiesta di un sussidio per le famiglie delle vittime della rivoluzione, i cosiddetti martiri, come dicevamo prima. Quindi anche qui le richieste sono state appunto più estese, variegate, anche perché ad Alessandria diciamo che i cortei principali, o comunque gli assembramenti, non erano, cioè non tutte le persone sono convogliate in un unico punto. Vi erano tre punti principali: uno che è al centro proprio della città, per chi conosce Alessandria, il quartiere di Almanscheglia, che sarebbe vicino alla penisoletta che divide i due golfi della città. Lì, oltre a questo punto, vi era poi un'altra manifestazione importante nel distretto settentrionale della città. E poi il terzo punto, quello forse più interessante, era quello di fronte alla moschea di Muhammad Ali Ibrahim, che appunto sempre comunque in centro. Lì si sono ritrovati esponenti del movimento del 6 aprile, il movimento definito appunto Democratico e Popolare per il Cambiamento. Poi ci stanno appunto il Partito Socialista Rivoluzionario, anche i gruppi a sostegno di Mohamed El Baradei, ricordiamolo, ex capo dell'AIEA e che per qualche tempo è sembrato essere come dire, il presidente in pectore dell'Egitto per le prossime elezioni presidenziali, nonché anche alcuni, il cosiddetto fronte degli studenti indipendenti di Al-Azhar. Questa è una notizia interessante perché gli studenti dell'Azhar, ricordiamolo, la moschea università, una delle moschee università più importanti nel mondo arabo-islamico, perché forma intellettuali, forma imam, ovvero i capi delle moschee, forma coloro che deterranno poi il sapere religioso, che nell'area arabo-islamica è anche sapere politico. Ecco, hanno costituito un fronte indipendente di studenti che sembra apparentemente slegato dal movimento islamista più importante in Egitto, ovvero quello della Fratellanza Musulmana, anche se naturalmente vi sono delle connessioni, e queste connessioni le si vedranno poi, potranno essere verificate soprattutto nei mesi a venire. Oltre a queste manifestazioni, naturalmente poi la manifestazione principale, quella mediaticamente più studiata e più descritta, ovvero quella al Cairo, alla solita Midan Tahrir, la piazza principale, centro delle mobilitazioni degli ultimi mesi, che hanno portato poi, almeno a livello mediatico, sono state considerate come le protagoniste di queste mobilitazioni, della cacciata di Mubarak. Già da giovedì notte centinaia di ragazzi si erano riuniti per organizzare tutta la piazza in una maniera, diciamo, tra virgolette, più sicura rispetto a quanto è avvenuto in passato. Hanno costituito dei cordoni, hanno messo una grandissima tenda centrale, una sorta di ombrello che la potete vedere su molte foto che si ritrovano anche su internet. Hanno costituito poi delle entrate, degli ingressi a questo sit-in al centro della piazza per permettere anche un controllo delle persone che entravano ed evitare, come dire, l'infiltrazione, l'infiltrarsi di persone, diciamo, sospette. Hanno costruito anche delle vere e proprie barricate, e spiegheremo anche dopo perché diciamo, e anche per fortuna come abbia funzionato questo sistema di controllo. Però prima di ritornare alla manifestazione di ieri dobbiamo fare un passo indietro, perché comunque è da un po' che non ne parliamo da questa trasmissione, da questo approfondimento di Africa in Movimento sull'Egitto. Che cosa è successo? La tensione in Egitto è salita soprattutto da fine giugno, diciamo, verso il 27, 28, 29 giugno ci sono stati degli scontri importanti in Egitto. Non si trattava quindi del classico venerdì delle manifestazioni, si parlava appunto di, se non sbaglio, il 27 era un lunedì. Comunque il 28 e il 29 giugno c'è stato un assembramento importante di numerosi ragazzi, ragazze, ma anche persone più adulte che hanno deciso di scendere un'altra volta in piazza a al Cairo, soprattutto per protestare di fronte al Ministero dell'Interno. Ricordiamolo, appunto, il ministro è sempre questo Mansour El Essaoui. Perché che cosa, su che cosa, diciamo, per che cosa protestavano in particolar modo? Vi erano state delle decisioni sospette da parte di alcuni tribunali militari in riferimento a alcuni ex membri del regime che erano stati comunque arrestati e che erano sotto processo. Vi sono state delle assoluzioni, diciamo appunto, importanti, e oltre a questo vi erano appunto anche vi era stato un atteggiamento, diciamo, molto distensivo da parte delle autorità giudiziarie nei confronti di alcuni poliziotti che erano stati arrestati in passato. Questi assembramenti, queste mobilitazioni di fronte al Ministero dell'Interno hanno scatenato una fortissima repressione da parte delle forze di polizia. Naturalmente anche qui, accanto ai manifestanti che appunto protestavano contro il Ministero dell'Interno, vi erano poi appunto sempre i familiari delle vittime, dei ragazzi di piazza Tahrir. Quindi la repressione che è avvenuta in un determinato momento del 28 giugno e poi che è continuata anche il 29 giugno ha scatenato una fortissima tensione all'interno della popolazione e anche indignazione tra la popolazione, tra la gente egiziana. E naturalmente questo ha scatenato anche una riflessione da parte dei movimenti più in vista durante queste mobilitazioni sulle forze di sicurezza. La polemica è nata, ricordiamolo anzitutto, il risultato di questa repressione è stata, secondo appunto la fonte del Ministero della Salute, il ferimento di più di 1000 persone. Il Ministero della Salute parla di 1114 persone, anche se le organizzazioni, diciamo, per i diritti umani hanno fatto comunque una, attraverso dei report hanno parlato di più di 1200-1300 persone ferite. Quindi comunque una repressione molto forte che si è sviluppata durante questi due giorni, e un'indignazione che è aumentata soprattutto dopo le dichiarazioni del Ministro dell'Interno, perché il Ministro dell'Interno ha dichiarato che le forze di sicurezza avevano utilizzato solo gas lacrimogeni. Grazie però a questi report, grazie a dei video che poi sono stati pubblicati anche su internet e grazie anche alle testimonianze delle persone che erano lì in piazza, si è scoperto, si è rivelato all'opinione pubblica internazionale e nazionale che in realtà le forze di polizia anzitutto hanno risposto al lancio di pietre, non solo con lancio di altrettante pietre, hanno sparato lacrimogeni ad altezza d'uomo ed hanno usato anche armi da fuoco, anche se con appunto proiettili di gomma, comunque sempre ad altezza d'uomo. Insomma, i proiettili di gomma non è che non fanno male, possono addirittura uccidere. Se non c'è scappato il morto, è davvero stato un caso. Questa riflessione sulle forze di sicurezza che i movimenti in Egitto stanno portando avanti scaturiva anche da altri casi, altri abusi che la polizia aveva comunque prodotto nelle ultime settimane. Già il 25 giugno la polizia di confine, che fa sempre parte di queste forze di sicurezza, di questa centrale delle forze di sicurezza gestite dal Ministero dell'Interno, la polizia di confine egiziana ha ucciso 4 migranti africani che tentavano di attraversare il confine egiziano nel Sinai. E qui si apre un'altra questione importante, molto spesso trascurata in Egitto. L'Egitto è anche terra di passaggio di persone, di individui che dall'Africa cercano di arrivare attraverso il Sinai in Israele. E la polizia di confine dal 2007 un po' si stima che abbia ucciso almeno 93 migranti disarmati che tentavano di attraversare questo confine, naturalmente con la complicità delle istituzioni e delle autorità israeliane. Quindi una discussione sulle forze di sicurezza che naturalmente mette in causa in primis il Ministro dell'Interno per le dichiarazioni, per quanto negato rispetto all'atteggiamento della polizia. Ora ritorniamo però dopo questa riflessione, quindi per comprendere meglio non solo le tensioni come si sono accumulate in queste settimane, ma anche le rivendicazioni della piazza stessa, torniamo alle mobilitazioni di ieri. La cosa interessante è che ieri sera è uscito una sorta di documento, diciamo, programmatico no? A nome delle sigle che erano presenti in piazza, praticamente tutte. Poi ve le elencherò perché vi sono stati poi dei dissidi interni all'interno dei dissidi interni al movimento di cui parleremo in seguito. E questo documento è un documento congiunto quindi di tutte queste forze che è stato schematicamente scritto in 7 punti, 7 rivendicazioni che la piazza ha voluto inoltrare al Consiglio Supremo delle Forze Armate che gestisce, come vi dicevo, il processo di transizione. Allora, primo aspetto interessante, vi è stata una negoziazione lunga per la costruzione di questi 7 punti, una negoziazione che vedeva all'interno appunto degli attori e dei protagonisti di questo documento posizioni molto, molto divergenti, ma che dopo appunto lunghe negoziazioni sono arrivati ad una sintesi, diciamo anche un compromesso, e poi spiegheremo perché. Questi 7 punti quali sono? Allora, il primo riguarda, diciamo, il campo giudiziario. Si reclama il rilascio immediato di tutti i civili detenuti a seguito di condanne espresse da corti militari, quindi da tribunali militari. La cosa un po' meno interessante è che si chiede anche la costituzione di nuovi processi per queste stesse persone in tribunali civili. Quindi si dichiara che i processi militari per i civili non dovranno più effettuarsi, quindi dovranno essere completamente banditi. Tutto dovrebbe tornare, secondo appunto le rivendicazioni della piazza, in mano ai civili. Quindi è questa la questione importante. Il secondo punto riguarda sempre l'aspetto giudiziario. Si parla della creazione, o meglio, si chiede la creazione di un tribunale specifico per giudicare coloro che sono stati implicati nel omicidio e nelle torture dei manifestanti negli ultimi mesi. E naturalmente si chiede anche la sospensione dal servizio di tutti i poliziotti imputati, cosa che non è avvenuta. Perché? Perché, come vi dicevo, vi ricordavo anche prima, ultimamente vi è stato un atteggiamento molto conciliante da parte dell'autorità nei confronti di processi verso i poliziotti, ma non solo. Vi sono stati, per esempio, il ministro dell'informazione, l'ex ministro dell'informazione Anas Al-Fikri, come anche l'ex ministro delle finanze Yusuf Boutros Ghali, che erano imputati e che sono stati recentemente assolti, oppure, appunto, come vi dicevo prima, esponenti delle forze di polizia accusati di torture e di aver ucciso manifestanti, che invece nei cui processi sembra ci sia stato, appunto, un forte rallentamento. In alcuni casi, appunto, gli imputati sono stati rilasciati su cauzione in attesa di giudizio. Quindi le rivendicazioni di carattere giudiziario da parte della piazza sono molto pragmatiche, vogliono continuare un processo di giudizio nei confronti degli esponenti del regime e della repressione avvenuta in questi mesi. Dal punto di vista politico-istituzionale, invece, il terzo punto parla della cacciata proprio dell'attuale ministro dell'Interno, Mansour El-Essaoui, per quanto detto in precedenza, e la sua sostituzione con una personalità sempre del mondo, diciamo, una personalità civile, non più militare. Personalità che, secondo appunto sempre questo documento congiunto, dovrà impegnarsi immediatamente nella formulazione di un piano. Loro hanno parlato di completa ristrutturazione del dicastero, quindi del Ministero dell'Interno, che dovrà essere poi sottoposto ad approvazione, diciamo, della piazza. E in questo documento, nel terzo punto, si parla anche di un controllo giudiziario, quindi dell'attività del Ministero dell'Interno. Perché? Perché si sente, è sentimento ormai comune in Egitto, che il Ministero dell'Interno, è stato uno degli organi più, importanti nella costruzione come dire, dell'apparato repressivo egiziano, sia durante il regime di Mubarak, ma anche in questi mesi. Quindi loro propendono per un controllo dell'attività del Ministero da parte di alcuni organi giudiziari. Sempre dal punto di vista politico-istituzionale, poi vi è il quarto punto, che parla della cacciata anche dell'attuale procuratore generale e la nomina anche qui di una personalità da tutti condivisa, rispettata, quindi anche con il consenso della piazza. Il quinto punto riguarda in particolare il processo a Mubarak. Si parla appunto di un processo immediato per lui e per tutta la sua cricca, soprattutto e l'accusa qui è importante: vogliono un'imputazione per crimini politici contro l'Egitto e il suo popolo. Infine, altri 2 punti molto interessanti. Il sesto punto, perché si tratta nel sesto punto si trattano rivendicazioni di carattere socio-economico. Fino adesso è stato molto difficile da parte delle forze dell'opposizione o comunque da parte dei movimenti che sono scesi in piazza, molto variegati per progettualità politica, mettersi d'accordo sulle rivendicazioni di carattere socio-economico. Che cosa chiedono in questo sesto punto? La revoca della bozza di finanziaria attualmente proposta da parte, dal governo e la scrittura di una nuova bozza che tenga in considerazione le esigenze delle classi meno abbienti e allo stesso tempo sottoporre poi questa nuova bozza, prima della sua approvazione, a un pubblico dibattito. Quindi anche qui si chiede al governo di legittimare come soggetto politico, scusa, dell'intera piazza. Perché questo? Perché parliamo un attimo di questa bozza finanziaria. Come vedete anche in Egitto, insomma, succede quello che avviene sempre in Italia nei momenti della costruzione di una finanziaria. Anche qui, anche in Egitto, come qui, vi sono appunto fortissimi tagli al sociale. Il governo ha recentemente proposto questa bozza dove in realtà il sostegno al sociale è stato maggiormente ridotto rispetto a una precedente bozza che circolava in Egitto. Loro parlano appunto di uno scopo principale di questa finanziaria che era quello di ridurre il deficit egiziano, il deficit dello Stato egiziano. E per ridurre questo deficit si parla di una riduzione drastica della spesa per l'assistenza sociale, quindi per la sanità, per l'educazione, per i salari dei dipendenti pubblici, come anche per i sussidi alla disoccupazione. Un esempio fra tutti è proprio il sussidio alla disoccupazione. Si era prima pensato allo stanziamento di 2 milioni di lire egiziane per questo fondo, diciamo, ma appunto nella nuova bozza si è ridotto ad 1 milione, quindi del 50%, un taglio veramente netto. Molte forze dell'opposizione, poi naturalmente ricordiamolo, rivendicano anche l'aumento del salario minimo, che in Egitto è davvero da fame. Figuratevi che voi l'aumento che loro hanno chiesto da qualche mese, non solo le forze dell'opposizione, ma anche i nuovi sindacati indipendenti che si sono costituiti negli ultimi mesi, rivendicavano l'innalzamento del minimo salariale a 700 lire egiziane, ovvero più o meno 80 euro circa, diciamo, poi il cambio naturalmente è molto flessibile. Comunque, la bozza in realtà parla di 684 lire egiziane. Ora, sembra una miseria queste 16 lire egiziane, ma in realtà sono tante. Stiamo parlando solo del minimo salariale, che poi molto spesso non è nemmeno rispettato in situazioni di precarietà economica o comunque in situazioni in industrie, attività, imprese che non sono fortemente sindacalizzate o comunque non sono fortemente, dove non c'è un forte controllo da parte dei lavoratori. L'accusa quindi principale portata al regime su queste politiche, nella sostanza, è che non è cambiato nulla delle politiche economiche adottate all'epoca di Mubarak, ovvero da una parte vi è una politica di austerity nel sociale per ridurre questo benedetto debito e dall'altra una politica di privatizzazione dei settori economici a controllo pubblico. Questa è la classica politica che viene promossa dal Fondo Monetario Internazionale, dalla Banca Mondiale, dalla Banca Centrale Europea, per far sì che i prestiti o comunque che l'indebitamento dei paesi in via di sviluppo, penso all'Egitto, ma penso anche ai paesi dell'Africa subsahariana, penso a quanto è avvenuto in America Latina qualche anno fa. Quindi questo è il classico programma che questi organismi internazionali che gestiscono e che dettano le politiche del grande capitale, del capitale internazionale, propongono per i paesi indebitati. Politiche che naturalmente portano da una parte a non ridurre in realtà il deficit, perché poi vi è un'ottica di dipendenza che si riproduce, dall'altra portano ad un taglio e ad un impoverimento sempre maggiore della popolazione, delle classi meno abbienti e taglia oltretutto le prospettive nel medio-lungo periodo economiche del paese, perché con queste politiche di privatizzazione, che fino adesso all'epoca di Mubarak si stavano accelerando sempre di più, si soffoca il paese, non si dà nemmeno al paese, non si lasciano al paese le risorse necessarie per una politica magari che tramite investimenti possa portare ad un risanamento dei conti e anche a un miglioramento delle condizioni di vita della popolazione meno abbiente. Settimo ed ultimo punto, è molto molto importante. Si parla di è in riferimento proprio al Maglis al-Askari, che sarebbe appunto il consiglio militare. Vi è una chiara ed aperta definizione, cioè chiedono loro una chiara e aperta definizione delle prerogative del Consiglio Supremo delle Forze Armate. Cosa si reclama in particolare? Si rivendica una distinzione netta delle competenze del Consiglio Supremo delle Forze Armate rispetto alle competenze del governo messo in piedi qualche mese fa. Perché questo? Perché fino adesso vi è stata sempre la longa manus del Consiglio Supremo delle Forze Armate su qualsiasi provvedimento preso dal governo. Parlando con compagni egiziani, ci raccontavano appunto ultimamente proprio che tutta la popolazione egiziana sa che alcuni provvedimenti molto impopolari sono stati adottati dal governo sotto, diciamo, veramente adottati dal governo sotto dettatura del Consiglio Supremo delle Forze Armate. In primis i provvedimenti che vietavano assembramenti di piazza, manifestazioni, scioperi che potessero attentare alla tranquillità, alla stabilità economica del paese. Si fa naturalmente una critica forte al governo, ma si sa che il nocciolo della questione è risolvere il rapporto tra potere esecutivo, secondo loro, e il potere dei militari che guidano questo processo di transizione. Ora, in questo documento congiunto loro parlano appunto di un primo ministro che dovrebbe avere, secondo loro, pieni poteri e prerogative per nominare i vari ministri, quindi tutto il gabinetto di governo, e tutti i membri del governo, dei governi futuri, dovranno essere, e questo dovrebbe essere sancito per legge, lontani da qualsiasi esperienza passata con il regime di Mubarak. Quindi questo proprio per dettare un momento di rottura nei confronti di quanto avvenuto in passato e di quanto sta avvenendo in questi ultimi mesi. La percezione della popolazione egiziana, il sentore del popolo egiziano che ha portato a una manifestazione così massiccia ieri, venerdì 8 luglio, dopo tanto tempo, è che in realtà non si è cambiato nulla, quindi non si è cambiato nulla non solo nelle politiche economiche, ma non si è cambiato nulla dall'epoca di Mubarak ad oggi sulle prospettive, no? Politiche del paese. Vi sono ancora delle leggi, se il Mubarak se n'è andato e è stato cacciato, vi è ancora tutto un apparato di leggi presente e costruito ad hoc da Mubarak, ma anche dai dittatori precedenti, quindi anche da Sadat e da Nasser, che devono essere a loro avviso smantellate. Figuratevi che la legge d'emergenza, che era stata appunto adottata sin dall'epoca di Nasser e rinnovata, adeguata alla situazione anche da Mubarak, una legge di emergenza che permetteva alle forze di polizia e alle forze di sicurezza di limitare qualsiasi tipo di organizzazione, l'attività di qualsiasi tipo di organizzazione politica, di limitare qualsiasi tipo di assembramento, di appunto arrestare in maniera diciamo arbitraria qualsiasi individuo all'interno dello Stato egiziano. Questa legge di emergenza, ebbene, è ancora in vigore, non è stata in realtà cancellata. Per quanto riguarda per esempio la libertà di espressione, anche qui sono ancora in vigore leggi molto restrittive, nonostante la proliferazione di nuovi giornali indipendenti negli ultimi mesi. Quindi anche qui ci sono almeno una trentina di leggi che possono mandare in galera un giornalista per articoli, report, dossier, e questo lo si è visto proprio nelle ultime settimane, quando diciamo negli ultimi mesi a questa parte almeno 5 giornalisti, questo ce lo riporta il quotidiano Al Masri El Yaoum, l'Egitto Oggi, almeno 5 giornalisti sono stati convocati dai procuratori militari per dare conto di alcuni report da loro scritti. Ora ci prendiamo una piccola pausa, ho parlato pure troppo, e poi continueremo con questa riflessione su quanto avvenuto in Egitto. all you lonely hearts out there, and this one's called Here Today, Gone Tomorrow. Prendiamo questo approfondimento di Africa in Movimento, stiamo parlando appunto dell'Egitto, di questo documento congiunto che è stato portato avanti dalla piazza al termine della manifestazione di ieri a Midan Tahrir al Cairo. E abbiamo parlato appunto di punti di rivendicazione di carattere nel settore giudiziario, ma appunto soprattutto i punti cardine, ovvero rivendicazioni di carattere socio-economico che iniziano ad estendersi a una serie di sigle che fanno parte, che hanno partecipato alle mobilitazioni e che in realtà fino a questo momento hanno concentrato la loro attenzione solo sulle questioni di carattere prettamente politico-istituzionale. Quindi un passo avanti importante che dovrà essere verificato nelle prossime settimane. Un protagonismo della piazza che rivendica in questo momento anche un controllo sostanziale dell'attività legislativa da parte del governo e rivendica per questo, in questa dialettica con il governo, anche un allontanamento a mio avviso poco probabile, soprattutto per quanto riguarda le prossime settimane, un allontanamento, dicevo, del Majlis al-Askari, del Consiglio Supremo delle Forze Armate, da qualsiasi tipo di decisione. Parlano loro di definire le prerogative e definire i campi di intervento di questo Consiglio Supremo che gestisce il processo di transizione, perché sanno che è stato questo Consiglio Supremo a proporre determinati provvedimenti controrivoluzionari, che in realtà è il protagonista di questo processo controrivoluzionario. Tra i firmatari di questo documento c'è la coalizione dei giovani della rivoluzione, coloro che appunto hanno animato, cioè questa sigla in realtà molto eterogenea di persone che hanno animato le mobilitazioni a Midan Tahrir negli ultimi mesi. Vi è il partito cosiddetto socialdemocratico, un partito neocostituito, come anche il Fronte Democratico. Poi vi sono i giovani per la giustizia e la libertà, vi spiegherò a breve chi sono, il partito dell'alleanza popolare e il partito della coscienza. E stanno tentando ora queste sigle di allargare l'adesione a questo documento ad altri partiti, ad altri collettivi o organizzazioni sindacali. Come avete sentito dalle sigle che vi ho elencato, non vi sono i Fratelli Musulmani, vi è solo questo partito dei Giovani per la Giustizia e la Libertà, che è un partito in realtà nato dalla Fratellanza Musulmana, ma è nato in un'ottica abbastanza particolare, e questa è una questione che bisogna un attimo tenere presente. La Fratellanza Musulmana, prima della manifestazione di ieri, o meglio fino a mercoledì sera, giovedì mattina, non aveva aderito alla manifestazione. Perché? Perché tra le rivendicazioni del movimento vi era anche, o comunque di una maggior parte delle sigle che hanno partecipato alla mobilitazione poi di ieri, vi era anche l'annullamento delle elezioni, della tornata elettorale del settembre prossimo, per quanto riguarda l'elezione del Parlamento. Perché? Perché si diceva che era troppo presto, e perché si basava, secondo loro, su una Costituzione che, per quanto emendata, per quanto modificata nelle ultime settimane, comunque era una Costituzione troppo conservatrice e che soffocava in realtà quanto di buono il movimento aveva prodotto in questi mesi dalla cacciata di Mubarak. I Fratelli Musulmani naturalmente si sono opposti a questo passaggio per due motivi. Da una parte, perché sanno che per le elezioni del settembre prossimo sono il movimento, ora costituitosi anche in partito, più organizzato e capillare all'interno dello scenario politico egiziano. Quindi sanno che andando alle elezioni, andando a votare a settembre, avrebbero un grande vantaggio soprattutto rispetto ai partiti di sinistra neocostituiti. Dall'altra vi è la contiguità, la convergenza di interessi, in questo caso tra la Fratellanza e il Consiglio Supremo delle Forze Armate, una convergenza di interessi che si è mostrata, è divenuta lampante sin dai primi giorni dalla cacciata di Mubarak, ma in realtà anche prima. Figuratevi che, appunto, vi ricordo che i Fratelli Musulmani inizialmente non aderirono alle prime mobilitazioni contro Mubarak, quindi anche precedentemente alla cacciata del Rais. E successivamente, quando vi sono stati questi emendamenti della Costituzione, come vi abbiamo detto da questi microfoni, si era costituita una sorta di commissione di saggi, di pochissimi individui che appunto dovevano costruire alcuni emendamenti per rendere la Costituzione più papabile alla opinione pubblica egiziana ed internazionale. Tra questi saggi vi era appunto Tarek al-Bishri. Tarek al-Bishri è un esponente dell'islamismo politico egiziano, precedentemente affiliato alla Fratellanza Musulmana, oggi si dichiara indipendente ma comunque molto affine all'ideologia che anima il movimento dei Fratelli Musulmani in Egitto, e che proprio per questo ha fatto degli emendamenti che erano, diciamo, ben visti dal movimento della Fratellanza Musulmana. Cancellare questa Costituzione e quindi anche la tornata elettorale di settembre per riproporre una scrittura della Costituzione ex novo sarebbe stato quindi un colpo troppo forte contro gli interessi del movimento. Ed è proprio per questo che nei 7 punti che vi ho elencato e tentato di spiegare non vi è nessun riferimento alla questione elettorale, perché i Fratelli Musulmani si sono opposti e proprio perché, non essendoci questo punto, quindi hanno deciso quindi di aderire alla mobilitazione. Vi sono delle tensioni, quindi, come ben vedete, all'interno delle opposizioni formali e informali che ci sono in Egitto, delle tensioni che naturalmente si avranno delle conseguenze e delle ripercussioni anche nei mesi a venire. Tensioni che poi sono all'interno della stessa fratellanza, perché una parte di quel movimento, in realtà, da qualche settimana a questa parte, ha deciso di staccarsi dalla classe dirigente, dal movimento più istituzionalizzato. E sono appunto i giovani, quegli Shabab Alekhwan, i giovani della fratellanza, che hanno partecipato sin dall'inizio alle mobilitazioni anti-Mubarak, sono stati protagonisti nella piazza, nelle piazze, anzi, scusate, di tutto l'Egitto, accanto alle forze più laiche, con rivendicazioni anche di carattere socio-economico e non solo, quindi di carattere politico. Ed è proprio per questo, all'inizio sono stati minacciati di venire cacciati comunque dalla fratellanza musulmana. Il momento di rottura è arrivato qualche settimana fa, quando i giovani della fratellanza hanno deciso di costituire un partito a sé stante. Vi è una lotta intestina, come vi dicevo, all'interno della fratellanza, che proprio nel momento in cui sembra ottenere un riconoscimento storico, perché la fratellanza dal 1928, quando è nata, sino ad oggi non è mai stata riconosciuta legalmente all'interno dell'Egitto. Quindi, quando adesso ottiene un riconoscimento politico importante dal Consiglio Supremo delle Forze Armate, che dice di dover coinvolgere la fratellanza musulmana, ma non solo, anche da parte dell'establishment internazionale, vedasi Obama e i contatti che sono stati comunque intrattenuti tra diciamo, la dirigenza di Washington e la fratellanza musulmana, le sedi della fratellanza che si trovano negli Stati Uniti. In questo momento il movimento della fratellanza sembra implodere per delle contraddizioni interne. Vi sono delle nuove generazioni, come vi ho già ricordato in passato, che spingono per un atteggiamento più movimentista del movimento, e anche più pragmatico nelle alleanze, nelle discussioni, nella concertazione con le altre forze dell'opposizione. E vi è invece un quadro dirigenziale anziano che fino adesso ha comunque mantenuto stabilmente il potere, perché di fronte a una repressione forte dello Stato tutti erano compatti dietro questa dirigenza, che invece ora si trova in difficoltà a dover governare le spinte che dal basso si stanno producendo. Quindi dovremo vedere ora, nelle settimane seguenti, come questo movimento, questa gioventù si muoverà rispetto alla dirigenza, se davvero continueranno un percorso indipendente di avvicinamento anche ad altre sigle, ad altri movimenti della sinistra più radicale, come sembra il caso in queste settimane. Per ora, dopo questa riflessione, io vi saluto, spero comunque di avervi dato un attimo un quadro più ampio della situazione, di quanto sta accadendo in Egitto, e vi lascio dopo questo piccolo stacco musicale, con le altre trasmissioni della radio.